Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. 23 febbraio 1981, 30 anni fa esatti, Drago, il colonnello Tejero, irrompe nel Parlamento spagnolo e... Vabbè, per forza, ma che cosa dici Kappa? Cosa c'entra con Chiedo Asilo, il colonnello Tejero, Juan Carlos? È un golpe, il golpe, un tentato golpe. E quindi? È una situazione per la quale si può chiedere asilo all'estero, sì, no? Perché c'è un golpe. Ho capito, ma 30 anni fa, ormai gli spagnoli sono al sicuro da ogni tipo di golpe, abbi pazienza. Piuttosto sono i tunisini che non sanno bene che cosa fare e vengono qui a chiedere asilo. E noi cosa gli rispondiamo? Noi gli rispondiamo a tempo di rap. Asilo nido. Allora qui noi dobbiamo intenderci, io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. Siamo d'accordo? Bisogna far così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33? Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. E ora, bambini, ricreazione! Ricreazione? Vai, vai, vai. Guarda che il bambino Alberto non c'è, quindi a posto. Quindi, stavolta la facciamo anche noi la ricreazione, ma la vera ricreazione. Se vuoi, però sarebbe meglio trovare un bambino lo stesso per confrontarci con lui, no? Perché? Ma dov'è il bambino Alberto? Ma non è che quando non mi vedete in cortile non ci sono, no? Basta guardare in alto, sono sull'albero. Non avete ancora capito. Ma sei ancora lì che provi a fare la piccola vedetta lombarda nella recita, che devi fare la recita? Sì, il 17 c'è la recita, Sì. Bisogna farla bene davanti ai genitori, Sì, ma il 17 marzo l'asilo non è chiuso. Come chiuso? Sì, festa, almeno così si dice. Sì, ma forse è aperto. E speriamo, perché sennò io cosa ci sto a fare qua? A cercare gli austriaci. Bravo, gli ma hai studiato la parte, quindi la sai. Più o meno, sì. Cioè, allora, praticamente, cioè, io sono Giovanni Minori, no? Chi? Tito, bambino algonchino. No, qua l'algonchino. Vabbè, è una tribù di indiani, no? Gli algonchini, bella cosa. No, ho capito, ma io non sono un bambino algonchino. Io sono Giovanni Minori. Ma Tito, smettila di infilare i nomi a caso. Cosa Giovanni Minori? Questa è la storia della piccola vedetta lombarda. Cosa c'entra Giovanni Minori della Rai adesso? Ma cosa dici? Giovanni Minori della Rai, quello di Mixer, no? Quello adesso... Mixer. Ma Giovanni Minori era un bambino della Lomellina, no? Da quelle parti lì. Ed è il vero bambino che ha ispirato il racconto della piccola vedetta lombarda. Cioè, ma io queste cose ve le devo spiegare io. Giovanni Mino, ma pensa a te. Io in TV non l'ha mai detta però questa. Ma sono cose personali. Certo, sì. Vabbè, in ogni caso, allora, io vengo mandato su un albero per fare la vedetta, no? Per vedere se arrivano i nemici, no? Gli austriaci. Vabbè, questo lo sappiamo, più o meno questa è l'ossatura, no? Allora, cioè, praticamente questi qui mi chiedono se io sono capace di salire su un albero, no? E io rispondo, in mezzo minuto ci salgo sull'albero. Però poi dovrei salire sull'albero. E non sono mica capace. Allora nella recita come fate? Ti portano su con l'elicottero? Con un argano ti tirano su, cosa fanno? Ma no, c'è una scala Pioli. Quella lì non la vedete? Quella fate di corda che bascola tutta. Sì, è pericolosa poi anche. Se vuoi te la veniamo a tenere noi per la recita. No, no, di voi due non mi fido, Al limite Gildo. Ma cosa fai? Ti preferisci Gildo, l'amico immaginario che ti tiene alla scala vera? Ma scusami, allora fatti tenere la scala. Dai, Gildo, ti da solo. La scala! Il teatro! Ma no, qua è il teatro! La scala, no? Quella lì, non la vedi? Quella dell'albero! Al teatro pensava il teatro alla scala. Certo. Pensa a te, Gildo. Ma io non ho capito, ma sti qua, cioè lui sta parlando da solo adesso o sta provando la recita? Non so, non sembra di amici, sei a sentirlo. No. Ma no, quale pasta asciutta? Pasta asciutta! Ma no, qui te la scordi la pasta asciutta, Qui sono finocchi cotti! Cotti. Nell'aria si insinua un profumino mi stuzzica il naso, ma cos'è? Sa un po' di letame, mi viene una fame immensa, aspetta, non me. Eccomi in fila ad aspettare, si fanno scommesse sul menù. Chi dice fagioli, chi dice banane, ciliegie, biscotti, coniglio di cane. Ma il cuoco in vacanza, c'è una sola pietanza. Finocchi cotti, finocchi cotti, finocchi cotti per me. Per me, per te e per tutti voi, perché i finocchi cotti sono un fatto collettivo. Grazie, grazie. Bravo, bravo. Vabbè, allora, una volta che ti sei arrampicato a fatica in cima all'albero, cosa devi fare? Stare attento, non cadere. No, qui comincia il difficile, sì. Perché in teoria quando sono su io dovrei cominciare a fare lo spiritoso. Lo spiritoso. Solo che ho paura, perché ho paura di cadere, no? Beh, ci credo. Quindi non è che mi viene così spontaneo fare lo spiritoso. No, sì, ma cosa vuol dire fare lo spiritoso? Non mi sembra che sia una storia spiritosa, no. Questa. Ma no, ma che devo fare la parte di quello che non ha paura, no? Ah, il coraggioso. Sì, la storia di coraggio, di un eroe. Sì, però che loro dicono di scendere e lui non scende, no? Vabbè, così. Il vero eroe è così. Ah, no, scendi, Dio. Ma no, non ho paura. Non voglio scendere. Dov'è che devo guardare? Guarda davanti a te. Guarda davanti a te. Ma davanti a te dove? Davanti a te o davanti a me? Vabbè, comunque. Guarda, non vedo niente, no? Guarda a destra. E poi, no, guarda a destra. Ma la tua destra, no, o la mia destra? Ma non è così la parte. Guarda a sinistra, allora. Comunque, alla fine, guardo di qua, di là e non vedo niente, no? E dopo, alla fine, capito com'è? Cosa? No. Eh sì, che a forza di fare lo spiritoso, destra, sinistra, destra, mi arriva una cannonata che mi sega. Ma no, il parolacciometro che qui è teatro! Sì, ormai è tolleranza zero sulle parolacce. Anche a teatro. E ti informo che sembra che la multa sia passata da 50 centesimi a 10.000 euro. 10.000 euro? Non ci si può fare niente così. No, sì, ma non ho capito. Il drink di prima, quello lì che ho detto quella cosa, era già da 10.000 euro. Non lo so. Sembra di sì. Sembra. Cioè, non so se l'aumento è già in vigore, però. Sono voci che girano, sai? Sì, sono voci. Sì, girano le voci, ma non solo le voci, perché qua sopra di me girano i corvacci neri, Ah, beh. Vabbè, almeno ti tengo compagnia lassù. La compagnia dei corvi? Non è che sia. I corvi portano sfiga! Poi appunto! Portano sfiga, vabbè. E non dire che sei morto! No, è morto non ancora! Poi, quando arrivano gli austriaci? Quando arrivano gli austriaci! E dopo muoio, E ora, bambini, e tutti a casa! Sai che Marchionne... Ma basta, hai rotto. Cosa c'è? Hai rotto con Marchionne. Tutte le volte che dobbiamo attraversare la strada mi parli di Marchionne. Vabbè, basta. Per forza, vedere tutte ste macchine. Chi vuoi che mi venga in mente? Mi viene in mente Marchionne, no? Ah, vabbè, è come se vedere tutti i palazzi che sono da dietro ti viene in mente Ligresti. Vabbè, non so nemmeno che faccia abbia Ligresti, tu sì? Sì, sembra Ligresti. Un po'... Adesso non fare similitudini. No, sembra un nanetto cattivo. Vabbè. Sembra un po' Cirino Pomicino più schiacciato. Più schiacciato, vabbè. Ma... Come la versione... La Porsche rispetto Ligresti. Al maggiolino. Sì. La Porsche è un maggiolino schiacciato. Ligresti è un Cirino Pomicino schiacciato. Tito, vedi, cappa. Non è tanto conosciuta la faccia di Ligresti. Marchionne invece lo conoscono tutti, dai. Sembra De Michelis da giovane, più o meno. Ma cosa dici? Ma chi? De Michelis. De Michelis. Ma non aveva mica il maglioncino. No, sì, però i capelli sporchini sì, Guarda, comunque ti dicevo che Marchionne, no? Però, Drago, scusami, guardami. Cioè, veramente non puoi farne a meno. Marchionne è interessante. Ma una, non è una persona assolutamente interessante. La cosa che volevo dirti era pure divertente. Per una volta. Cos'era? Ma no, niente, se non ti interessa. Ma dai, va bene, per stavolta parliamo ancora. Dai, Marchionne. Allora, cos'è sta cosa divertente su Marchionne? Tu sai che Marchionne ha diviso la Fiat in due tronconi, in due aziende separate: la Fiat Auto e poi tutto il resto. No? Sì. Sai come l'ha intitolata la relazione con cui ha spiegato agli investitori questa trasformazione? No, non lo so. From Genesis to Revelation, and then they were. Ma cosa stai? Ma come? Sono due dischi dei Genesis, no? Appunto. Che lui ha parafrasato per dare il titolo alla relazione. Cioè, And Then There Were Three è il disco di quando i Genesis sono rimasti in tre, che se n'è andato Steve Hackett, no? E lui, visto che la Fiat da di una Abba diventa Cab. Due, Abba Cab era un altro album dove c'era Mama. Invece, questo qui è un disco quasi sconosciuto. Non però si può parlare di musica. Visto che la Fiat da una diventa due, lui ha pensato bene di cambiare il tutto. From Genesis to Revelation, che è il primo disco del 69. And then there were two. Cioè, ma cosa vuol dire? Ma scusa, tutta sta cosa per dirmi cosa? Che Marchionne è un fan dei Genesis? Ma chi se ne frega? Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che è progressive, no? Quindi è progressista, magari poi gli operai prima o poi gli aumenta gli stipendi, no? Continuano a piovere per mail, su Facebook, sulla pagina Facebook del bambino Alberto, sulla nostra, su quella di Tito. Continuate a mandarle, chiedo asilo, radio24.it. Però non è che è così, il talking blues non è che tatarattarita, Drago, su, studia un po'. Chiedo asilo.